La vedova di Sarepta, una donna che accettò la sfida della fede. Abitava nel piccolo paese di Sarepta, tra Tiro e Sidone, nella Fenicia, una regione a nord di Israele. Non solo suo marito era morto, ma anche lei e suo figlio erano vicini alla morte, a causa di una terribile e mortale carestia nel paese, dovuta a una lunga assenza delle piogge. Le provviste d'acqua erano finite e il paese era incapace di produrre del frumento. Le scorte di cibo si stavano esaurendo e non potevano essere rimpiazzate. Le difficoltà della vita giornaliera erano aumentate, non solo per la vedova, ma per ogni abitante del paese. Essa aveva ancora un po' d'olio e un po' di farina, appena sufficienti per preparare un ultimo pasto per sé e per il figlio. Dopo averne mangiato, avrebbero potuto solo aspettare la morte. Questa vedova uscì a raccogliere della legna per cuocere l'ultimo pasto. E, quando arrivò alle porte della città, vide un uomo vestito di una lunga tunica, stretta da una cintura di pelle. Non lo conosceva perché era straniero, questo sconosciuto era Elia, il profeta di Israele, che aveva profetizzato la carestia per vari anni. Elia la chiamò e le chiese di portargli un po' d'acqua da bere. Essa si rese conto della particolarità di quell'uomo, forse, dai suoi abiti. Pur non avendo abbondanza d'acqua, sentiva di non poterlo deludere. Doveva fare ciò che lui diceva. Il dio di Elia non era il suo dio, perché lei era pagana, ma molto probabilmente aveva sentito abbastanza del dio di Israele da avere un rispetto profondo e una grande riverenza per lui. Mentre si voltava per tornare a casa per prendere l'acqua, Elia le disse: «Portami anche un po' di pane». La vedova spiegò amaramente la sua situazione dicendo: «Com'è vero che Dio vive e pane non ne ho? Ho solo una manciata di farina in un vaso e un po' d'olio in una brocca. Ed ecco sto raccogliendo alcuni stecchi per andare a cuocerne del pane per me e per il mio figliuolo. Lo mangeremo e poi morremo». La vedova pensava che la triste storia avrebbe convinto l'uomo dell'impossibilità di essere esaudito nella sua richiesta, ma non fu così, perché Elia replicò: «Non avere paura, va a preparare il pane come hai progettato, ma prima fa per me una piccola focaccia e portamela. Dopo ne fai per te e per tuo figlio, perché il Signore di Israele promette che il tuo vaso di farina non verrà mai meno e l'olio nel tuo vasetto non finirà, finché lui non manderà la pioggia sulla terra». La vedova non aveva mai sentito prima di allora che del pane e dell'olio potessero non esaurirsi. Non aveva mai avuto a che fare direttamente con il Dio di Israele. Anche se quest'uomo parlava nel nome di Dio, chi le poteva garantire che egli fosse un suo inviato? Forse non era disposta a rischiare per sé, ma doveva farlo. Almeno per la vita di suo figlio, il suo unico figlio. Era un grande atto di fede quello che veniva richiesto a questa donna pagana, la quale veniva sfidata a credere alla parola di un uomo, mentre non aveva nessuna prova che egli fosse un servo del Dio vivente. Come poteva aver fiducia in lui? Ma lei percepì un'autorità nella voce dell'uomo e decise di rischiare. E dopo che ebbe servito al profeta il pasto richiesto, c'era ancora farina e olio abbastanza per lei e per il figlio. Il miracolo si ripeté per molti giorni, forse per anni. L'esperienza di questa vedova pagana era simile a quella degli israeliti nel deserto, ai quali il sostentamento era provveduto da Dio ogni giorno, con del pane che discendeva dal cielo. Forse questa vedova non sapeva quello che l'Eterno Dio aveva fatto per Israele nel deserto. Perciò per lei, il fatto che l'olio e il pane non venissero meno costituiva una sfida giornaliera alla sua fede. E la provvista era sempre in misura così piccola e precisa da non permetterle di metterne da parte e poterci fare affidamento. Essa poteva solo aver fiducia nella promessa di Dio. Così, ogni giorno le era chiesto di porre fede nella parola data dal profeta. E di giorno in giorno sperimentava il miracolo, perché c'era abbastanza da mangiare per loro tre. Questo continuò per molto tempo, e la fede della vedova era per forza di cose ancorata in Dio. Poi accadde qualcosa che le fu impossibile capire. Elia era venuto ad abitare in casa sua, e si era stabilito nella sala di sopra. L'autore della lettera agli Ebrei afferma che una persona ospitale, senza saperlo, può anche alloggiare degli angeli. e questa fu l'esperienza della vedova di Serepta. L'angelo della morte, che era all'opera durante quel tempo di carestia, non era entrato nella sua casa e lei non era stata una vittima, perciò era inconcepibile che suo figlio dovesse all'improvviso ammalarsi. Anche prima di avere il tempo di dirlo al profeta, suo figlio morì. Non poteva capire perché Dio avesse tenuto suo figlio vivo durante la carestia e, adesso, ne permettesse la morte. La morte stava rubando la sua preda in modo troppo diverso. Questo la turbava. Con la presenza dell'uomo santo di Dio nella sua casa, lei si era accorta d'essere una donna peccatrice, si ricordò del suo passato ingiusto e pensava che questa fosse la causa della morte del figlio. Il suo peccato richiedeva un castigo, un salario. Anche se era pagana, la sua divinità, come quella di ogni altra religione, non tollerava gli errori. Questo pensiero confessò con disperazione al profeta. «Dammi il tuo figliuolo», disse il profeta Elia. Portò il bambino morto nella sua camera, lo mise sul suo letto, poi lottò con Dio per lui. «O Eterno, Dio mio, colpisci tu di sventura anche questa vedova della quale io sono ospite facendone morire il figlio? Torni, ti prego, l'anima di questo fanciullo in lui». Pregò e si distese sul bambino tre volte, come se volesse trasmettere la vita e il calore del proprio corpo al corpicino esanime del bambino. L'Eterno rispose alla sua preghiera ed egli fu pieno di gioia. I suoi occhi videro rifiorire la vita nel fanciullo ed Elia portò il figlio vivo a sua madre. Intanto la donna aveva sperimentato una crisi nella sua fede. Prima del miracolo della moltiplicazione del cibo, aveva rafforzato la sua fiducia nel mandato del profeta. Si era convinta che egli era verace, riconosceva che effettivamente erano parole di Dio e si poteva fidare di lui. Ora espresse chiaramente in parole la propria convinzione come non aveva mai fatto prima. Era così intimamente partecipe del dramma presente, tanto meravigliata e colpita, da non potersi rendere conto che Dio stesso stava facendo qualcosa di meraviglioso per lei. Una profonda sofferenza dovrebbe produrre una fede più grande. Tale fede deve però, prima di tutto, venir messa alla prova per constatarne la genuinità. Quando Dio vuole conoscerne il valore, permette la sofferenza perché la fede che rimane anche dopo la prova della sofferenza rimanga pura. Più tardi, quando fu passata la carestia, essa, guardando indietro, sperimentò una doppia benedizione, perché non solo la sua vita era stata prolungata giorno dopo giorno, ma aveva anche assistito alla risurrezione di un morto, suo figlio. Come risultato di questa esperienza, essa fece una chiara dichiarazione di fede. «Ora io so che tu sei un uomo di Dio e che le parole che tu dici sono veraci». La vedova di Serepta non avrebbe mai più dubitato della parola di Dio e avrebbe vissuto con questa fede. La seconda prova della fede fu molto più difficile della prima, ma essa ne uscì fuori maturata ed arricchita, come tutti quelli che hanno una fede genuina e sincera. Questi miracoli non avvennero nel territorio di Israele perché non si poteva trovare nessuno fra il popolo di Dio che aiutasse il profeta in pericolo. Infatti, gli israeliti avevano rigettato l'Eterno per seguire Baal, una divinità pagana frutto dell'immaginario umano, incapace di far piovere e di aiutare chi aveva bisogno. E la vedova di Serepta lo aveva capito e constatato. Così Dio era stato costretto a cercare aiuto al di fuori della frontiera di Israele. In questo periodo difficile della storia del suo popolo, l'Eterno ha mantenuto in vita il suo servo per mezzo di una donna pagana, una vedova che accettò la sfida ed ebbe fede nella parola trasmessa dal servo di Yahweh. Non per caso Gesù additerà questa vedova come esempio dicendo: «Vi dico in verità che al tempo di Elia, quando il cielo fu serrato 3 anni e 6 mesi, e vi fu una grande fame in tutto il paese, vi erano molte vedove in Israele, eppure a nessuna di loro fu mandato Elia, se non a una donna vedova in Sarepta di Sidone». La scrittura non dà molte informazioni su questa vedova, ma senz'altro ella imparò che il Dio di Israele ricompensa grandemente una fede posta in lui, indipendentemente dalla razza e dal popolo di appartenenza. E, vero che l'Eterno era il Dio degli Israeliti rivelatosi agli ebrei, ma non riteneva di essere una loro proprietà esclusiva. Poiché egli ha creato tutto ciò che vede e che non si vede, ama tutti i popoli. Questa verità gli israeliti la capiranno a caro prezzo, e quando la morte di Gesù avrebbe avuto un risultato universale, nonostante tutto, anche questa visione mondiale sarà da essi rifiutata. La vedova di Sarepta divenne sensibile alle cose invisibili che riguardavano il Dio di Israele e credette ad un mondo di fede reale quanto quello terreno. Ora non sperimentava che la farina e l'olio non finivano mai, ma realizzava che la sua fede nella verità si rinnovava ogni giorno. La prova per la quale Dio la fece passare, la rese capace di comprendere le realtà delle cose spirituali, vedeva ciò che prima guardava senza vedere, udiva ciò che prima sentiva senza udire, e fu per lei una dimostrazione della fedeltà di YHWH, il Dio di Israele. Studio facente parte di 21 trasmissioni Donne della Bibbia, tratti da qualche parte e rivisti.